Questa è una delle più impudenti mostruosità che si siano mai perpetrate in nome della nuova arte. È l'opera di una mente malata, di una personalità moralmente corrotta, diabolica. Tutto ciò non ha niente a che vedere con l'arte. Arricciava il naso una distinta signora, celando a stento una smorfia di riprovazione sotto i velami di un barocco copricapo. Sulla sinistra di Aurelio, invece, un giovanotto interloquiva con spigliatezza, affiancato ad un amico. Finalmente dell'aria! Finalmente si respira! Questa è l'arte che ci può nutrire, qua c'è un mondo e la legge secondo cui si compone. Il grande Marcel, l'uomo più intelligente del mondo, sghignazzava l'amico in risposta. Se il mondo di cui parli esiste davvero, non si salverà comunque dalle mascelle saturnine della nostra onnivora opinione pubblica. Non c'è niente di indigeribile per i nostri opinionisti e i nostri critici e per i mercanti, poi. Inghiottiranno anche il lavoro del tuo Marcel. Proprio come il padre Crono, dopo aver ingerito i propri figli, trangugiò pure la pietra che gli aveva portato la moglie per risparmiare Giove alla sua voracità. E fu un pasto che costò caro al vecchio Crono, mi pare di ricordare. Costerà caro. E ciò sarà a beneficio di chi può non badare a spese. Pensa che il proprietario del circo Barnum ha offerto 10.000 dollari per acquistare la gamba di Sarah Bernard nel malaugurato caso in cui la celebre attrice dovesse subirne l'amputazione. Pare che ogni cosa oggi possa diventare un'opera d'arte. Di questo passo si arriverà presto a conferire valore di opera d'arte agli oggetti acquistati nei grandi magazzini. Il sagace visitatore mostrò di aver concluso la sua iperbole, nella quale forma e contenuto si inerpicavano per un ironico asindeto. In effetti, da lì a poco tempo, Marcel Duchamp avrebbe elaborato il concetto di ready-made e prodotto lo scolabottiglie, égouttoir o port-bouteille o hérisson, comperandolo nel 1914 in un emporio di Parigi e apponendogli poi la sua firma di autore un paio di anni dopo. Al tempo dell'esposizione dell'Armory Show, tuttavia, l'uomo più intelligente del mondo, colui che seppe porre in autentica rivoluzione i concetti di opera d'arte e di valore di scambio, andava ancora raccogliendo le proprie dirompenti energie creative nell'anonima solitudine dello studio di Neuilly, alle porte della capitale di Francia. Egli non sapeva ancora di essere divenuto, come ebbe a scrivere di lui il romanziere Henri Rocher, il francese più famoso di New York insieme a Napoleone e Sarah Bernhardt. L'anno precedente, quel dipinto, Le Nuit descendant en escalier, era stato addirittura rifiutato dagli organizzatori del Salon des Indépendants. Il salone accoglieva migliaia di lavori di autori estranei a circoli accademici, dalla pittura dozzinale e decorativa alle opere dell'avanguardia neoimpressionista, fauvista e cubista. Il pittore teorico del cubismo, Albert Gleizes, aveva sancito che il lavoro di Marcel non rispondeva ai canoni estetici della nuova dottrina pittorica, e aveva pregato i due fratelli maggiori di Marcel, Jacques Villon e Raymond Duchamp Villon, affinché lo persuadessero a ritirare la tela di sua volontaria iniziativa. In quel tempo Marcel pativa l'ascendente dei fratelli, di lui più affermati e meglio introdotti nell'ambiente degli artisti di Montmartre. Inoltre i fratelli, tutti e tre, dipendevano allora dal sostegno economico che il genitore, ricco notaio del paesino normanno di Brainville, assicurava loro con borghese prodigalità. Pertanto Marcel non poté che acconsentire alla richiesta di abiura. Da quel momento in poi, tuttavia, la sorte di Marcel Duchamp, come pure Aurelio, sostando a 2 metri di distanza dal questionato dipinto, poté verificare, era radicalmente cambiata. fino al punto che chiunque nella metropoli newyorkese, dall'uomo d'ingegno al miserabile, dal banchiere all'ultimo degli hobos, si interrogava se quel Nude Descending a Staircase fosse un capolavoro oppure un'opera del demonio, e si interrogava pure su quale genere di uomo ne fosse l'autore.